Radio Cerrano presenta The Musical Box, programma di musica rock curato da Emidio, Piero e Carlo, che rovista tra la musica del passato e del presente. Eccoci qua, buonasera di nuovo, a tutti. Di nuovo. Il trio si è ricomposto dopo mesi di assenza sia dalle telecamere che dai microfoni. Come avete passato le vacanze, ti ricordi? Il primo tema che ci facevano fare a scuola. Allora, The Musical Box riprende la sua attività, così come Radio Cerrano. Radio Cerrano veramente non l'ha mai sospesa. Noi ci siamo visti, per quanto mi riguarda, qualche giorno fa per delle dirette che abbiamo fatto da fuori gli studi, e quindi insomma mi piace che abbiamo ripreso questa bellissima avventura musicale. Però scusate, ma lo so che è un uso un po' privatistico della radio, però io devo fare dei saluti d'obbligo. Devo salutare alcuni amici che con me hanno intrapreso una bellissima avventura umana e spirituale. Ma oddio, chiamiamola umana, sì. E cioè voglio salutare Alberto dalla Sardegna, poi voglio salutare Riccardo, un ragazzo potentino, voglio salutare Tommaso, catanese, saluto anche Giuliette, non so, probabilmente che ci potrà ascoltare, spero sì, dalla Francia, e poi Jennifer, e poi Skip da Los Angeles, e poi anche naturalmente Marco, lo saluto, spero anche di andarlo a trovare più presto, perché è qui vicino a noi, è un abruzzese. Saluto, vediamo un po' se mi dimentico qualcuno, Nico, saluto anche Sergio, saluto tutta una serie di persone che con me hanno condiviso questa bellissima esperienza, e loro sanno perché. E li saluto e spero. Non l'hai detto, però ci auguriamo molto appagante il tuo percorso. No, non volevo il percorso, vabbè, abbiamo condiviso con queste persone, ho condiviso con queste persone e con altre naturalmente, perché sono state altre, questo quasi 800 chilometri di cammino. Abbiamo fatto insieme il cammino di Santiago ed è stata un'esperienza veramente formidabile. Toccante, direi, un'esperienza che consiglio a tutti. Ci vuole un po' di tempo, però alla fine insomma è qualcosa che è di fattibile e soprattutto qualcosa che poi ti riempie la vita. Quindi li saluto tutti e poi insomma noi ci sentiamo ancora per tramite telefono, tramite WhatsApp, però mi sembrava giusto al rientro fare questo saluto. Bene, salutiamo anche noi. Salutate anche voi. Bene, pure noi ci uniamo. Ma salutiamo anche il nostro impareggiabile regista, dopo Carlo, pare. Ci siamo assentati per un paio di mesi e io, riagganciandomi a Carlo, oggi riapriamo. Oggi giovedì 17, riapriamo i battenti, diciamo che siamo pronti a salpare per riprendere questa nostra navigazione. Ma abbiamo ricordato il nome di questa trasmissione? È la trasmissione Musical Box. Salutiamo ancora tutta la community dei nostri radioascoltatori sparsi nel mondo, ecco, voglio esagerare. Salpiamo di nuovo per continuare questa nostra navigazione musicale dopo appunto la parentesi che diceva Carlo estiva, per rievocare, per rispolverare o quantomeno riportare all'attenzione del nostro benamato pubblico di radioascoltatori tutta quella miriade di artisti, gruppi che con i loro generi musicali hanno reso immortale la storia del pianeta musica. Quindi i primi ospiti di questa prima puntata sono un gruppo proveniente dalla Norvegia, quindi occhi puntati quest'oggi sulla Norvegia per incontrare una delle band più rappresentative del garage punk rock, emersi negli anni 90, precisamente nel 93, mi ero perso. si impongono immediatamente all'attenzione con un suono molto grezzo e travolgente. Ma chi sono? Catturando l'attenzione del pubblico internazionale. Sin dall'inizio si distingue per le chitarre ruvide, il ritmo incalzante e testi molto molto incisivi. Debuttano ufficialmente nel 97 pubblicando l'album Barrel Legal, che segnerà l'inizio della loro ascesa. Stiamo parlando del gruppo dei The Hives e da questo album abbiamo estratto l'accattivante brano che si chiama Here We Go Again. Sono i norvegesi The Hives. Questo è il gruppo che siamo in questione, patria degli arcinoti, anche ha dato i natali agli arcinoti, anche ABBA, gli c'è un salto ci vogliamo gli eccetera. Questo era appunto Here We Go Again, dalla loro prima produzione Barrel Legal del 97. Ma tuttavia è con il secondo loro disco, che si chiamava Beni Vidi Vicious, che otterranno la consacrazione internazionale grazie a singoli poi diventati iconici, dai riff molto irresistibili, trascinanti, come Hate to Say I Told You So, che adesso vi mandiamo in onda. back all of the shots for the notes and the knots because I wanna dalla Norvegia con furore erano sono i The Hives. Siamo oggi qui di tornati a Radio Cerrano. No, mi piace questo incipit molto soft. 16 ottobre, giovedì, prima puntata, primo appuntamento con i nostri radioascoltatori. Continuiamo ancora qualche accenno biografico su The Hives. Nel 2004 sarà la volta poi del loro terzo album, da Tyrannosaurus Hives, con cui consolideranno ulteriormente la loro reputazione. In questo primo decennio gli Hives si posizioneranno nelle chart internazionali, una sequela poi di lavori dal grande riscontro commerciale. A chiudere il decennio sarà il disco Black and White del 2007. Però noi da questo album, terzo, Tyrannosaurus, adesso oggi vi proponiamo il brano Rigor Mortis Radio. E vai! Rigor Mortis Radio, The Hives, album del 2023, sesto album di questo gruppo norvegese a cui abbiamo affidato il colpo d'inizio musicale di questo nuovo ciclo di trasmissioni qui a Radio Cerrano di Musical Box. concludiamo, ci abbiamo una conclusione. Dopo questo album, i The Hives si concederanno una pausa quinquennale sino al 2012, per poi far ritorno con un altro lavoro, l'Ex Hives, ennesimo intervallo poi di 10 anni, poi si sono ripresentati nel 2023, eccetera eccetera. L'ultimo addirittura è uscito di recente, l'ultimo album dei The Hives, ad agosto 2025, Forever, Forever Hives. Insomma, in ultima analisi diciamo che i Hives sono stati a loro modo molto influenti, non solo per il loro sound ma anche per la loro estetica visiva, con i loro completi bianchi e neri e l'atteggiamento da rockstar. Da sottolineare inoltre che la band nel corso della loro carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Il loro merito è quello di aver saputo reinventare i garage rock per una nuova generazione, mantenendo intatta la propria identità. Da ultimo aggiungiamo che la loro carriera si estende ormai da 2 decenni, continuando a influenzare nuovi artisti e a intrattenere fan adoranti con la loro energica e coinvolgente musica. È tutto. Era il 1976, eh? Abbiamo fatto un salto, direi un triplo salto mortale, perché dopo il gruppo presentato da Piero io ho voluto completamente cambiare, come dire, registro, per dare anche un po' di leggerezza a questa scatola della musica, perché in effetti, come spesso abbiamo detto, probabilmente anche chi ci segue lo saprà, noi questa scatola rovistiamo, andiamo a trovare qualcosa di vecchio, ma qualcosa di nuovo, arriverà il nuovo. E quindi non ci formalizziamo, no? Per noi non è un problema, no? Fare questi salti un po'. Mescoliamo. Sì, mescoliamo, facciamo un po' di jamming, come si suol dire. E io volevo anche un po' fare un altro piccolo, perché sono sicuro che i miei amici che mi stanno ascoltando si offenderanno, perché no, non li ho citati tutti, perché per esempio ho citato sì Marco, Alberto, Tommaso, però poi non ho citato Eva, una ragazza di Madrid, Alex, anche lui di Barcellona, Carlos di Barcellona. Eravate una folla. Courtney, sì, beh, diciamo che una delle caratteristiche importanti del cammino è che il mondo ti viene addosso, praticamente, ti viene incontro, anche se si cammina tutti verso lo stesso obiettivo. È un incontro-scontro. E volevo salutare anche Stefano di Chiavari, che è un grosso amico, io lo chiamo un po' il mio target. Ecco, tutta questa gente la saluto e naturalmente ci risentiremo. Irene, anche lei americana, Skip, ve l'ho detto, americano, e Jane, che invece è australiana. E, insomma, spero di non aver dimenticato nessuno, qualcuno sì, forse sì, però insomma. E quindi noi ci siamo ascoltati, ritornando un po' alla musica, ci siamo ascoltati questi Tavares, Ralph Vieira, Arthur Paul, Antoine Lee, Feliciano e Perry Lee, tutti con il cognome Tavares, ecco perché venivano chiamati i Tavares Brothers, fratelli. I fratelli, perché li ho messi? Li ho messi perché l'altro giorno, ascoltando Radio Capital, anche loro hanno ritirato fuori questo brano che è stato un grossissimo successo e credo che sia stato uno dei primi successi che ha acceso un po' la miccia della disco music in America. Questo brano è del 76, qualche anno dopo la disco music sarebbe un po', si sarebbe un pochettino spenta, però questo brano, che come ricordava il nostro editore regista Factotum Carlo, e tra parentesi, nonostante l'andamento un po' gioioso, un po' così festaiolo, però la tematica è abbastanza triste, perché parla di un ragazzo, di un bambino che muore, quindi che Heaven Must Be Missing an Angel, quindi un bambino che raggiunge il paradiso. E quelli che ci ascoltiamo fra un po' sono altre persone, insomma, che hanno fatto un po' la storia della disco music. Chasing Beh, anche qui, come vi dicevo, stiamo parlando un po' di un caposaldo, un gruppo caposaldo della, beh, della disco, definirli solo della disco. L'odiatissima disco music. No, io per me, allora, ritorniamo. Mi spiego. Allora, verso la metà degli anni 70, noi rockers, e noi che voi ascoltavamo rockers, sì. Genesis, King Crimson, Pink Floyd, eccetera, si creò, ecco, questa specie di antagonismo tra chi ascoltava la musica rock, leva specie, di un certo livello, e quelli invece che andavano in discoteca e si cullavano con questa musica che noi all'epoca ritenevamo veramente superflua e banale. Calma, poi col tempo abbiamo rivalutato ampiamente anche la disco music, che bisogna riconoscere, insomma, il suo valore, il suo spessore. Beh, chiusa parentesi. No, hai ragione, hai fatto questa sottolineatura che mi sembra importante, perché in effetti per parecchio tempo un po' la disco è stata tacciata, come etichettata un po' come una sorta di musica commerciale, eccetera, che per l'amor di Dio è sta cosa esiste, così come esistono anche le sono esistiti i gruppi o i cantanti fake all'interno anche di altri generi musicali. Io ecco perché ho voluto in qualche modo rappresentare questo momento storico musicale con i Tavares, gli Earth, Wind and Fire. Stiamo parlando dei signori Earth, Wind and Fire. Appunto. Io ti faccio un endorsement, perché questi, va bene, discriminati, ma loro hanno spaziato in diversi generi. Sì, bravo, jazz, lo stavo per Morris dire. Morris White, dal jazz, funky e via discorrendo. Stiamo parlando, appunto, come diceva Piero, di signori musicisti soprattutto. Perché poi in fondo la buona musica viene sempre fuori, che poi strizzi l'occhio meno al commercio. September era la sigla di un programma televisivo, era la presentazione dei film, c'era questo brano, mi ricordo. Sì, credo che fosse una sorta di prima del film? Sì, qualcosa del genere. Del lunedì, roba del genere. Vabbè, ormai la memoria... Io non spendo tantissime parole per descrivere gli Earth, Wind and Fire, perché insomma stiamo parlando di un gruppo super conosciuto che ha avuto un grosso successo, come ricordava Piero, in diversi ambiti musicali, rhythm and blues, anche jazz, anche... quella che per un certo periodo è stata chiamata anche musica fusion, ecco. Però se noi stiamo ancora qui a parlarne, ad avere questa nostra, ad avere questo aplomb nei confronti di questo tipo di musica, vuol dire che qualcosa hanno lasciato, come ha lasciato tanto quella signora che stiamo per ascoltare. Questo brano, se permettete, lo dedichi a me. A me. Me lo dedico. Bene. Posso? Sicuramente. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Just Beh, io credo che questo finale un po' sia travolgente e allo stesso tempo molto conosciuto. Molto conosciuto. Io il mio piccolo spazio lo chiudo con questa superba Gloria Gaynor. Anche lei, insomma, ha fatto la storia della disco o della cosiddetta musica. Me la passi la palla, me la passi. No, non te la passo. tu fremi. Proposte di palle, c'è il... Stai fremendo, no, lasciami c'è dire. L'incontro di Sinner stasera. Non lo so. Djokovic, Djokovic. Vabbè, proposte di palle in questo caso, non è da tennis. Non è che mi faccio impazzire questa cosa. No, no, a me mi ha preso un po' il tennis ultimamente. Calcola che questo prende $1,500,000 di dollari ogni partita che fa. Vabbè, e risiede a Monte Carlo. Torniamo a noi. Niente, dicevo, me la voglio autodedicare, Will Survive, perché credo che me lo merito. Sì, ma per il sicuramente testo, molto importante per il testo, sì, ma sì, anche per questa musica così gioiosa, travolgente. Eh? Vabbè, anche l'interprete è molto gradevole. La palla passa a te. Ecco, perfetto. Allora, dopo le, come le possiamo definire, le mini biografie di Piero, molto puntuali e interessanti. E gli artisti che presenta a volte sono artisti minori, però dalla sua analisi diventano artisti importantissimi e influentissimi. Scusa Piero. No, ma dopo il rigor mortis di Piero, credo, Gloria Gaynor. Dopo le proposte di Carlo che attinge nei meandri dei suoi ricordi. No, volevo avvisare gli ascoltatori che ci sta prendendo in giro. No, ci sta prendendo per il culo, quindi in giro. Allora, arriviamo alle mie proposte, che di solito sono dischi molto più recenti e a volte addirittura novità assolute, almeno nella prima parte delle mie proposte. Oggi voglio presentarvi alcuni estratti di un disco recentissimo, è uscito il 12 settembre del 2025, anche se... Allora, dicevo, il gruppo comunque non è di recente, di primo pelo, anzi è un gruppo che è nato nel 1981 in Inghilterra, precisamente nel Middleton, e il gruppo si chiama Chameleons. E qualcuno forse li ricorderà, questo è un gruppo diamo qualche piccola informazione, un gruppo che a me piace particolarmente, è un gruppo di new wave, di post punk, che purtroppo non hanno avuto il successo che meritavano, anche se loro in pratica hanno influenzato parecchi gruppi che ne hanno riconosciuto un po' questa paternità e loro sono rimasti un po' nell'ombra. E tra l'altro anche gruppi più recenti, gli stessi Oasis, i Verve, ma soprattutto gli Interpol, hanno proprio dichiarato che si sono ispirati a questo gruppo. E loro nella prima metà degli anni Ottanta fecero alcuni dischi veramente importanti e io li reputo veramente grandi. Però che possiamo dire, diciamo che forse un'industria abbastanza distratta, anche il fatto che loro erano abbastanza schivi, sono rimasti un gruppo di culto. Questo nuovo disco l'hanno fatto dopo 24 anni e hanno mantenuto la loro peculiarità, cioè una new wave molto melodica, anche con tutte le caratteristiche del genere, un basso pulsante, chitarre sferraglianti. E il disco chiaramente non è proprio un capolavoro assoluto, ma è un disco molto bello, molto interessante. E prima che mi dilunghi troppo vi presento un primo estratto che si chiama Where Are You. Questo è un primo brano molto, molto energico, che prende molto. Mandiamolo, vai regia. We'll be right back. Chameleons, dal loro ultimo album Arctic Moon, recentissimo. E dopo questo brano molto tirato, questa sferzata d'energia, questi ritmi incalzanti, e presentiamo forse il brano forse più melodico della raccolta. Tra l'altro è l'ultimo pezzo del disco, che si chiama Saviors Are a Dangerous Thing. Bene. Ti devo fare i complimenti, questo brano. Sì, sì, sì. Accetto anche i complimenti. Mi piace. No, ribadisco l'importanza, la valenza di questo nuovo disco dei Chameleons. E stavamo anche notando un po' il testo di questo brano appena proposto, un brano che ci sembra di capire che sia una missiva contro l'influenza dei salvatori, dei leader che promettono soluzioni facili a problemi complessi. Diciamo che è un brano molto contemporaneo per quanto riguarda le tematiche. Bene, bene, allora cercatelo questo disco. Facciamo sì che almeno in questo ritorno abbiano il giusto riconoscimento. E ripasso la palla a Piero. Do una nota di merito, Emilio. Un gruppo dal profilo molto interessante, meritevole di essere riscoperti. Mi infilo di nuovo per trasferirmi in America. Cerco di essere schematico, anche perché questo gruppo merita un capitolo a parte. Ricostruiamo il percorso umano artistico di una band molto famosa, quanto però diciamo incompresa e banalizzata, ma che malgrado addirittura ciò banalizzata. Un po' banalizzata questo gruppo, però malgrado ciò sono riusciti a sfondare nel mainstream della loro epoca. Stiamo parlando del fine anni 70 e inizio 80, parliamo dei Divo, incasellati post-punk o meglio hard rock, ma sono ricordati per lo più come una delle band simbolo della New Wave. Si distinsero sin dagli inizi per il loro stile molto eccentrico, molto strampalato, con sonorità molto definirei robotiche, meccaniche, tic nervosi e riff di chitarre molto distorte. Ce li ricordiamo quasi tutti le loro esibizioni con le loro tute gialle, grigie e gli elmetti di plastica rosso, muovendosi in maniera nevrotica e caricaturale al fine di voler parodiare la società industriale. Beh, decisamente la componente visiva dei Divo fu l'elemento centrale della loro originalità e efficacia. Sono ritenuti anche pionieri dei video, tant'è che si trovarono al posto giusto e al momento giusto per la nascita di MTV, che come sapete ieri hanno annunciato la chiusura anche in Canada, mi sembra, di MTV. Però da noi MTV ancora lo possiamo trovare su Sky. Io perlomeno seguo ancora MTV sul canale 133. Sky è nostra concorrente, lo dobbiamo ricordare. Beh, MTV fu per loro un trampolino di lancio incredibile, ma naturalmente anche per tantissimi artisti e altri gruppi. Loro sono stati erano figli del 68, quindi periodo molto orribile, ma non diverso da quello che stiamo vivendo, in cui il paese era molto completamente, anzi era come diviso e polarizzato, come lo è tuttora anche da noi, come lo è tuttora anche qui in Italia. C'era la guerra inventata in Vietnam, c'era Nixon, c'era la protesta, insomma tutto ciò forgiarono nella coppia Gerald e Bob Casale, fondatori della band, un atteggiamento molto anticapitalista e anti-establishment. Nacquero nel 72 nell'Ohio ad Akron, dove fecero una gavetta per ben 5 anni sempre circoscritto al circuito della musica underground. Fu però il 78 l'anno di grazia della svolta in cui Divo si sono presentati al mondo, attirando l'attenzione di artisti di fama quali Bowie, che non esitò allora a definirli il futuro della musica, Robert Fripp, Brian Eno, che si offrirono di produrli, ma alla fine ad occuparsene fu proprio Brian Eno, e l'album in questione, quello che era diventato una pietra miliare, era Are We Not Men? We Are Divo. Posso dire una cosa? Non siamo uomini, siamo involuti. No, questa era la traduzione. No, posso dire una cosa. Prego. A proposito di quello che tu hai detto a proposito dei Divo, cioè che anche l'attuale contemporaneità del loro discorso, ecco, chiamiamolo, sì, così, del perché loro assunto era questo. Divo, il gruppo si chiama Divo perché proviene dall'acronimo De Evolution, sì, cioè, esatto, quella di cui si parla anche attualmente, no? Questa, sì, decrescita felice, quindi in qualche modo secondo loro l'umanità invece di continuare a evolversi ancora, sono fortemente regredito. Attuale, sì, è vero. Sono fortemente attuale, c'è molta pertinenza con la certo, è vero. Concordo. E come dicevi tu, questo fu considerato, questo album Hero with No Man Where Devo, fu considerato proprio l'album, come dicevi tu, l'album manifesto del loro assunto pur sulla involuzione, diciamo, dell'umanità verso forme di pensiero, diciamo, e comportamenti un po' incentrati sul consumismo, diciamo, sull'omologazione culturale. Stavano avanti in maniera acritica, con i quali ottennero però molte ottime recensioni e un ampio successo commerciale che li proiettarono nelle prime posizioni dei chart. Da questo album, chiaramente, vi proponiamo un pezzo trainante che fu un rifacimento, una versione frenetica, stravolta, reinterpretata in chiave tutta loro, che si chiama dei leggendari Stones, I Can Get No Satisfaction. I Can Get No Satisfaction, i Devo, incredibili, pazzeschi. Siamo qui nel 78, il loro debutto straordinario. Anche l'album successivo del 79 ebbe un'ottima accoglienza, e gli anni 80 poi si aprono con Freedom of Choice, in cui i Devo completano la loro transizione verso il genere synth pop con sonorità più orecchiabili, dal quale abbiamo estrapolato Whip It. Break your mama's back. Whip It, Divo, 19.35, siete sempre sintonizzati su Radio Cerrano. No, a proposito di sintonizzatori... questo lo usavamo, questo linguaggio, più nelle radio libere, però... E questo dimostra... Anche questa è una radio libera, o no? C'è una radio che presenta i Divo, che presenta i Chameleon e che presenta i Tavares tutti insieme, più libera di così. No, io volevo dire che ci sono degli ascoltatori che si sono sintonizzati, che ci fanno anche delle domande che però non riusciamo a interpretare, no? Perché dimmi. Allora, c'è Giovanni che scrive: il titolo prog sa di Genesis, il titolo è prog, quindi non abbiamo capito un attimino a chi si riferisce. A chi si riferisce? Mm-hmm. Comunque, ecco, su Facebook può intervenire, può commentare, noi gli risponderemo in diretta, giusto? Su YouTube. Su YouTube, scusa, però l'ho condiviso anche su Facebook. Ma non ci bloccano? Non ci bloccano. No, è il link che ho condiviso su Facebook. Ho capito, vedi, i magheggi. Regista, ricorda agli ascoltatori dove ci possono ascoltare, seguire, quali sono questi canali, queste piattaforme, le repliche. Le piattaforme online, Radio Box, TuneIn, Radio Garden, il nostro sito, poi rimetteremo su Archive, Internet Archive, il podcast. Lo taggeremo su tutti i nostri canali social. Comunque questa c'è, cioè, una bellissima diretta su YouTube che finalmente non blocca. Non lo dire forte. Ormai YouTube veramente ci dobbiamo puntare. E salutiamo tutti quelli che sono collegati, perché c'è appunto il programma video in diretta su YouTube. Vai a Midio, scusami. Non doveva presentare un ulteriore brano con Piero. Il Divo. Allora, vabbè, ci siamo interrotti. Devo dire che tocca a te. Whip It è il brano che abbiamo estrapolato da Freedom Choice, il secondo album. E in questo brano, allora io mi ricordo di questa clip in cui sbeffeggiavano l'immagine del macio conservatore, allora presidente, Ronald Reagan. Altro capitolo interessante poi sarà l'album dell'81, New Traditionalist, che ebbe anche un buon riscontro di critica e pubblico, da cui abbiamo estratto Beautiful World, apparentemente allegra, ottimista, ma un atto e un jacuzzi contro la guerra. Beautiful World. Non c'è. No, io volevo aggiungere, volevo aggiungere una cosa a proposito. Non te l'ho mandato. Io noto anche, e poi insomma l'ho riscontrato anche, la presenza di Brian Eno. In questo brano, ad esempio, la produzione di Brian Eno insomma viene fuori, no? In qualche modo, non dico proprio uguale ai Talking Heads, ma si sente un po' la mano di Brian Eno, che è un altro remida della musica internazionale, perché dove Piero devo informarti che il brano c'è, ecco. Ah, mi ha visto, questo mi conforta. Allora, no, perché siamo persi in chiacchiere, quindi vabbè. Mi dicono che c'è. Quindi Beautiful World da New Traditionalist dell'81, Divo. Are you? Are you? Beautiful sì. World, Divo, e ci arriviamo anche alla conclusione con i Divo. Gli anni 90 i Divo pubblicheranno un solo album, poi si scioglieranno e torneranno addirittura alla ribalta nel 2010, in cui daranno alle stampe il loro ultimo lavoro, concludendo così la loro appassionante parabola. Insomma, tirando le somme, possiamo affermare senza ombra di dubbio che come i Divo sono stati solo i Divo. Probabilmente non ci sarà un altro gruppo simile. Sono stati visionari, controcorrente, alieni quasi, incompresi, avanguardisti di un futuro alquanto però distopico, molto spaventoso. Ma di sicuro sono stati una band d'altro profilo e tali restano tra i più innovativi che animarono scene fondamentali per lo sviluppo della musica alternativa americana, lasciando un'eredità musicale di inestimabile valore. Ah, prego. No, volevo salutare un nostro ascoltatore, l'avvocato Luca Salini, che ci ascolta. Luca, ho detto pure il cognome, vabbè. E Luca che ci ascolta dice, anche competente musicalmente, molto, molto competente, che ci fa molto piacere, perché voglio dire. E poi volevamo rispondere al... Mi sembra di capire che qualcuno ha ravvisato nel nome del programma Musical Box un richiamo, un riferimento ai Genesis. Beh, vabbè, e in effetti c'è. C'è dall'inizio, però c'è. È anche vero che a è noi... stato un omaggio, questo titolo anche un omaggio, certo, ai Genesis, un omaggio a un negozio di dischi, esatto, della nostra città che aveva lo stesso nome, sì, che ricordiamo sempre con affetto. E che era tuo. Beh sì, all'inizio era mio, perché era un luogo di incontro magnifico, dove si era un cenacolo. Bravo, sì. Dove si parlava di musica, ci si aggiornava e ci si emozionava. Bellissimo, guarda quei giorni. Bene, mi ricordo. Bene. Allora... No, volevo dire che come hai potuto ascoltare il nostro ascoltatore, scusate il bisticcio di parole. Non è che è esclusivamente musica progressive, mettiamo un po' di tutto. Oggi Operazione Nostalgia credo che l'abbia fatta un po' da padrona e credo che... Però sarà stato un caso, adesso metteremo alcuni brani proprio dei Genesis. Quindi continua l'Operazione Nostalgia. Allora, perché qualche brano dei Genesis? Allora, pochissimo tempo fa è uscito un box, un cofanetto, in occasione del 50° anniversario di un loro disco capolavoro che era The Lamb Lies Down on Broadway. E naturalmente c'è la versione rimasterizzata, non so, forse anche il DVD, eccetera eccetera. Io non l'ho visto il box. Comunque a me la cosa che interessava recuperare la versione live di questa opera che è contenuta in questo disco, e qui c'è da fare un paio di considerazioni, un paio di precisazioni. Allora, gran parte di questa registrazione, stiamo parlando di un loro live, vediamo un po' di dove era di... vediamo un po', era... registrato il 24 gennaio del 75 nello Shire Auditorium di Los Angeles. È un'esibizione, tra l'altro, uscita in parecchi bootleg, un'esibizione mitica. E gran parte di questo concerto poi fu inserito anche nella raccolta che si chiamava Archive. Però sembrerebbe che Peter Gabriel non era molto soddisfatto della sua esibizione, tant'è che in studio praticamente ricantò i pezzi, quindi non era più un live autentico, insomma era un live modificato, e tutti i fan del gruppo invece avrebbero preferito invece ascoltare proprio l'edizione originale di quella esibizione. Il disco, il live accluso a questo box recente, era stato annunciato come effettivamente l'edizione originale, però molti hanno storto il naso. No, molti hanno detto no, non è vero, anche questa versione non ci sembra proprio quella istrionica, perché Peter Gabriel, come sappiamo, durante i concerti saltava con le sue maschere, e quindi chiaramente anche la voce non era perfetta, era un po' altalenante anche quella. Invece qui c'è quasi un tono più maturo, almeno qualche fan mi ha fatto notare questa cosa. In ogni caso è sempre un gran bel sentire. E da questa esibizione noi vi presentiamo un primo brano che si chiama Counting Out Time. Adesso, quasi senza soluzione di continuità, forse il brano più bello e famoso dei Genesis, The Carpet Crawler. Concordo. There is lambs wool under my naked feet. It feels soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in my memory. There's no one to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. From a second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the pole. The carpet crawlers heed their callers. We gotta get in to get out. Faces that I see, it's upward to a ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They're pulled up by the magnet, believing they're free. Get in to get out. Bene, bene. Ci siamo deliziati anche con questa musica immortale. Si può dire una cosa? E dirla, dai. No, volevo dire, musica stupenda, eccetera. Il testo è di una cosa che... No, gli strisciatori del tappeto, no? Carpet crawls. Gli strisciatori coprono il pavimento del corridoio rosso ocra. Per la mia seconda vista le persone hanno più linfa vitale di prima. Si stanno muovendo a tempo verso una pesante porta di legno dove l'occhio dell'obelisco sta ammiccando, chiudendosi sul miserabile. Vabbè, aspetta, questo testo va inquadrato in tutto il contesto dell'album. Concept. Cioè. Concept album, esatto, che pare che la storia di un portoricano, non neanche mi ricordo bene, l'avrò letto varie volte. Gli strisciatori del tappeto ubbidiscono ai visitatori, dobbiamo entrare per uscire, dobbiamo entrare per uscire, dobbiamo entrare per uscire. E vabbè. Non però, voglio dire una bestemmia, ma l'abbiamo anche ballato questo disco, Carlo. Soprattutto ballato. L'abbiamo ballato. Ci ha uniti fortemente questo. Ci ha uniti insieme alle ragazze perché era... Non essere adesso... No, dicevo che era un brano... Trascendere. No, era un brano per... Il bello di non capire bene il testo inglese. Non ci avevamo capito niente, vabbè. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione. Ma era l'ultimo brano? Eh sì. Veramente? Quindi sì. Dobbiamo semplicemente salutare? Eh sì. Ci riempie di malinconie, ma... Allora, io ragazzi, resterei qui. Com'è stato questo riavvio dopo qualche mese? Molto, molto pimpante. E sono volati questi minuti, veramente. Vabbè. Anche perché lui ha detto che c'ha fame, quindi insomma dobbiamo andare... Dobbiamo rinnoviamo l'invito musicale, però rinnoviamo l'invito agli ascoltatori a giovedì, a parte a sentirci prossima, sì. Anche nelle prossime puntate, ma se hanno delle richieste, certo. O vogliono avere dei ragguagli, interagire con noi lo possono fare. Adesso il regista ribadirà come fare. No, io volevo dire comunque che noi di Radio Cerrano un po' ci stiamo attrezzando, credo che nelle prossime settimane ci saranno delle novità, ci saranno anche dei personaggi nuovi, è vero? Insomma, sì, ci saranno diversi ingressi. Diversi ingressi, vedi? Diversi ingressi importanti, ma quello che ci dovevi dire, non si può dire, che avrebbe... Non si può dire, magari a microfoni spenti. Grazie. Va bene, buona serata. E grazie per... Grazie per l'attenzione, a tutti. Per l'ascolto. Ascolto. Ma noi quello che mi preme maggiormente è sapere da parte dei nostri radioascoltatori se queste nostre proposte, le mie, le tue, le mie, sono veramente... ci hanno detto che siamo fantastici, incontrano i favori del pubblico. I Fantastici 3. No, forse sarà musica un po' datata, vintage, ma c'è meglio che mi auguro. Vorrei sapere se... Vabbè, ma noi proponiamo un mix, di cose, certo, diciamo, non recenti, anche la settimana delle novità. Vi stupirò con Gelato al Cioccolato, Pupo e così. Ok. Per non essere vinto. Alla prossima, ragazzi. Salutoni, abbracci. Buona serata. Buona serata.